Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I tre moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Orbene, proprio nel momento in cui D'Artagnan fissava lo sguardo sul gentiluomo col giustacuore violetto, costui faceva nei riguardi del ronzino bernese una delle sue più dotte e profonde disquisizioni, sicché i suoi due ascoltatori scoppiarono a ridere e anche lui, contrariamente alle sue abitudini, lasciò errare sul suo volto, se così ci si può esprimere, un pallido sorriso. Questa volta non c'era più dubbio. D'Artagnan subiva veramente un oltraggio. «Ehi, signore!» esclamò. «Signore, che vi nascondete dietro quell'imposta! Sì, proprio voi! Ditemi, di che cosa ridete e rideremo insieme!» Il gentiluomo ricondusse lentamente lo sguardo dalla cavalcatura al cavaliere, come se gli fosse occorso un certo tempo per capire che proprio a lui si rivolgevano così strani rimproveri. Quindi, svanito ogni possibile dubbio, aggrottò lievemente le sopracciglia e, dopo una pausa piuttosto lunga, con un tono d'ironia e d'insolenza impossibile a descrivere, rispose a D'Artagnan: «Non parlo a voi, signore». «Ma parlo io a voi!» esclamò il giovanotto esasperato da quel miscuglio di insolenza e di buone maniere, di cortesia e di disprezzo. Lo sconosciuto lo squadrò ancora un istante con il suo lieve sorriso e, ritraendosi dalla finestra, uscì lentamente dalla locanda per venire a piantarsi a due passi da D'Artagnan di fronte al cavallo. Vedendolo comparire, D'Artagnan trasse dal fodero un palmo di spada. Decisamente questo cavallo è, o meglio, è stato nella sua giovinezza giallo come un ranuncolo. Ricominciò lo sconosciuto continuando le indagini iniziate e rivolgendosi ai suoi ascoltatori. È un colore comunissimo in botanica, ma fino ad oggi rarissimo nei cavalli. Qualcuno ride del cavallo mentre non oserebbe ridere del padrone, esclamò furibondo l'emulo di Treville. Non rido sovente, signore, ribatté lo sconosciuto, però ci tengo a conservare il privilegio di ridere quando mi pare. E a me, esclamò D'Artagnan, non va che si rida quando non mi piace. Davvero, signore? Proseguì l'altro più calmo che mai. È giustissimo. E girando sui tacchi si accinse a rientrare nella locanda dall'androne sotto il quale D'Artagnan, al suo arrivo, aveva notato un cavallo già sellato. Ma D'Artagnan non era tipo da mollare così uno che aveva avuto l'insolenza di burlarsi di lui. Sguainò completamente la spada e si diede a inseguirlo strillando: «Voltatevi su, voltatevi, signor beffeggiatore, che non vi colpisca alle spalle!» «Colpire me?» fece l'altro ruotando sui tacchi e guardando il giovane con uno stupore pari al disprezzo. «Su, su, mio caro, siete pazzo!» Aveva appena terminato che D'Artagnan gli allungò un colpo di punta così violento che, se lo sconosciuto non fosse balzato rapidamente all'indietro, probabilmente avrebbe scherzato per l'ultima volta. Ma nello stesso momento i suoi due ascoltatori, accompagnati dall'oste, si buttarono su D'Artagnan con gran colpi di bastone, di palette e di molle, il che produsse una così rapida e completa diversione all'attacco che l'avversario di D'Artagnan, mentre questi si voltava per far fronte a quella gragnuola di botte, la ringuainò con la stessa precisione e d'attore che aveva rischiato di essere, ridivenne spettatore della zuffa, parte che assolse con la solita imperturbabilità, quantunque borbottasse: «Maledetti guasconi, rimettetelo sul suo cavallo arancione, e che se ne vada. Non prima di averti ammazzato, vigliacco! Gridava D'Artagnan, pur fronteggiando come meglio poteva e senza indietreggiare d'un passo i suoi tre nemici che lo tartassavano di colpi. La zuffa continuò quindi ancora qualche secondo. Infine, D'Artagnan, stremato, si lasciò sfuggire la spada che una bastonata mandò in due pezzi. Un altro colpo gli spaccò la fronte e nel momento stesso quasi lo atterrò, tutto sanguinante e semisvenuto. «Come sta quell'ossesso?» riprese lo sconosciuto volgendosi al rumore della porta che si apriva e parlando all'oste che veniva a informarsi di come si sentisse. «Vostra eccellenza è sana e salva?» chiese l'oste. «Sì, sanissimo e salvissimo, mio caro oste, e sono io a chiedervi che ne è del nostro giovanotto.» «Sta meglio», disse l'oste, «è completamente svenuto. Ma prima di svenire ha raccolto tutte le forze per chiamare voi e sfidarvi mentre vi chiamava.» «Ma è proprio il diavolo in persona, questo fegataccio!» esclamò lo sconosciuto. «Oh no, eccellenza, non è il diavolo!» ribatté l'oste con una smorfia di disprezzo. «Perché durante lo svenimento l'abbiamo frugato e nel fagotto non ha che una camicia e nella borsa in tutto 12 scudi. Ma ciò non gli ha impedito di dire, mentre perdeva i sensi, che se una cosa simile gli fosse capitata a Parigi, ve ne sareste pentito immediatamente, mentre qui ve ne pentirete solo più tardi.» «E nella collera non ha nominato nessuno?» «Sì, certo, si batteva sulla tasca e diceva: vedremo che penserà Monsieur de Tréville di questo insulto fatto al suo protetto.» «Monsieur de Tréville?» disse lo sconosciuto facendosi attento. «Si batteva sulla tasca pronunziando il nome di Monsieur de Tréville? Su via, mio caro oste, mentre il vostro giovanotto era svenuto, non avrete mancato, ne sono certo, di dare un'occhiata anche a quella tasca. Che cosa c'era? Una lettera indirizzata a Monsieur de Tréville, capitano dei moschettieri. Davvero?» L'oste, che non era dotato di grande perspicacia, non notò quale espressione avesse assunto le sue parole la fisionomia dello sconosciuto. Questi lasciò il davanzale della finestra sul quale era rimasto col gomito appoggiato e aggrottò le sopracciglia preoccupato. «Or su, oste», disse, «vorrete liberarmi da quel forsennato? In coscienza non posso ucciderlo e tuttavia...» soggiunse con una fredda espressione di minaccia, «tuttavia mi dà fastidio.» «Dov'è?» «Nella camera di mia moglie, dove lo stanno medicando, al primo piano.» «Ha con sé le robe e la sacca?» «Si è tolto il farsetto?» «È tutto giù in cucina, ma dal momento che questo giovane pazzo vi dà fastidio, certamente provoca nella vostra locanda uno scandalo che della gente di condizione non potrebbe tollerare. Salite di sopra, fatemi il conto e avvertite il mio lacchè.» Lo sconosciuto, sempre brontolando, si diresse verso la cucina. Intanto l'oste, convinto che fosse la presenza del giovanotto a scacciare l'ospite della sua locanda, era risalito dalla moglie e aveva trovato D'Artagnan finalmente padrone dei propri sensi. Allora, facendogli capire che la polizia avrebbe potuto conciarlo per le feste, per aver cercato di attaccar briga con un gran signore, perché secondo l'oste lo sconosciuto non poteva essere che un gran signore, lo indusse, nonostante la debolezza, ad alzarsi e a proseguire il cammino. E così D'Artagnan, mezzo intontito, senza giusta cuore, con la testa tutta infagottata nelle bende, si alzò e, spinto dall'oste, cominciò a scendere, ma, mettendo piede in cucina, scorse per prima cosa il suo provocatore che discorreva tranquillamente vicino al predellino di una pesante carrozza tirata da 2 grossi cavalli normanni. La sua interlocutrice, di cui appariva la testa incorniciata dallo sportello, era una donna tra i 20 e i 22 anni. Era un essere pallido e biondo, dai lunghi capelli ricciuti cadenti sulle spalle, dai grandi occhi azzurri languidi, dalle labbra rosee e dalle mani d'alabastro. Discorreva animatamente con lo sconosciuto. «Dunque, Sua Eminenza mi ordina, diceva la dama, di tornare immediatamente in Inghilterra e di avvertirla direttamente se il duca lasciasse Londra. E le altre istruzioni per me?» chiese la bella viaggiatrice. «Sono racchiuse in questa cassetta che aprirete soltanto sull'altra sponda della manica. Benissimo. E voi che fate? Io torno a Parigi. Senza dare una lezione a quel ragazzino insolente?» chiese la dama. Lo sconosciuto stava per rispondere, ma mentre apriva la bocca, D'Artagnan, che aveva sentito ogni cosa, si slanciò sulla soglia della porta. «È il ragazzino insolente che dà una lezione agli altri!» esclamò. «E spero proprio che questa volta colui che deve castigare non gli sfuggirà come la precedente!» «Non gli sfuggirà?» ribatté lo sconosciuto aggrottando le sopracciglia. «No, davanti a una donna, suppongo, non osereste fuggire!» «Pensate!» esclamò Milady, vedendo il gentiluomo portare la mano alla spada. «Pensate che il minimo ritardo può rovinare ogni cosa!» «Avete ragione!» rispose costui. «Via, partite dalla vostra parte e io dalla mia!» I due interlocutori partirono quindi a galoppo, allontanandosi ciascuno in direzione opposta. «Ehi, il conto!» sbraitò l'oste, il cui affetto per il suo viaggiatore si mutava in profondo disprezzo, vedendolo andare via senza saldare il debito. «Ah, vigliacco! Ah, miserabile! Ah, falso gentiluomo!» gridò D'Artagnan, lanciandosi a sua volta dietro al servo. Ma il ferito era ancora troppo debole per sopportare una scossa simile. Non aveva fatto 10 passi che gli orecchi gli ronzarono. Lo colse uno stordimento, una nube di sangue gli passò sugli occhi e stramazzò in mezzo alla strada ancora gridando «Vigliacco! Vigliacco! Vigliacco!» «È davvero un gran vigliacco!» mormorò l'oste avvicinandosi a D'Artagnan. «Sì! Un gran vigliacco!» mormorò D'Artagnan. «Ma lei, molto bella!» «Chi lei?» chiese il locandiere. «Milady!» balbettò D'Artagnan e svenne una seconda volta. L'indomani, fin dalle 5 del mattino, D'Artagnan si alzò, scese egli stesso in cucina, chiese, oltre ad alcuni ingredienti di cui non c'è pervenuta la lista, vino, olio, rosmarino e, con in mano la ricetta materna, si preparò un balsamo con cui si spalmò le numerose ferite, rinnovandosi da solo le compresse e non permettendo l'intervento di nessun medico. Grazie indubbiamente all'efficacia del balsamo di Boemia e forse anche grazie all'assenza di qualsiasi dottore, D'Artagnan si trovò in piedi fin dalla sera stessa e presso poco guarito l'indomani. Ma al momento di pagare il rosmarino, il vino e l'olio, D'Artagnan trovò in tasca solo la piccola borsa di velluto liso, come pure gli 11 scudi in essa contenuti. Ma la lettera per Monsieur de Tréville era scomparsa. Il giovane cominciò a cercarla con grande pazienza, voltando e rivoltando 20 volte le tasche e i taschini, frugando e rifrugando nella sacca, aprendo e chiudendo la borsa. Ma quando si fu convinto che la lettera era introvabile, fu colto da un terzo accesso d'ira che per poco non gli procurò un altro consumo di vino e olio aromatizzati. Perché, vedendo quel giovane scalmanato riscaldarsi e minacciare di fracassare ogni cosa nella casa se non si fosse ritrovata la lettera, l'oste aveva già afferrato uno spiedo, la moglie un manico di scopa e i garzoni gli stessi randelli che erano serviti 2 giorni prima. La mia lettera di raccomandazione, gridava D'Artagnan, la mia lettera di raccomandazione, per Diana, o vi infilzo tutti come tordi. Purtroppo un particolare vietava al giovane di porre in atto la minaccia. Gli è che nella prima zuffa la spada gli era stata spezzata in due, cose che egli aveva totalmente dimenticato. Tuttavia quel disinganno non avrebbe probabilmente fermato il nostro focoso giovanotto se l'oste non avesse riflettuto che la richiesta rivoltagli dal viaggiatore era più che giusta. Perciò, gettando via lo spiedo e ordinando alla moglie e ai servi di fare altrettanto con il manico di scopa e con i randelli, l'oste diede per primo l'esempio mettendosi lui stesso alla ricerca della lettera smarrita. «La lettera conteneva forse qualcosa di prezioso?» chiese dopo un momento di inutili indagini. «Perdinci! Lo credo bene!» esclamò il guascone che contava sulla lettera per farsi strada a corte. «Conteneva la mia fortuna!» «Dei buoni della Spagna?» domandò l'oste preoccupato. «Dei buoni della tesoreria particolare di Sua Maestà!» rispose D'Artagnan, il quale, contando di entrare al servizio del re grazie a quella raccomandazione, credeva di poter dare senza mentire quella risposta alquanto arrischiata. «Diavolo!» fece l'oste tutto disperato. «Ma non importa», continuò D'Artagnan, con la faccia tosta dei suoi conterranei, «non importa, il denaro non conta, quella lettera era tutto. Avrei preferito piuttosto perdere 1000 pistole. Non rischiava niente a dire 20.000, ma un certo pudore giovanile lo trattenne. All'improvviso un lampo illuminò la mente dell'oste che si dannava senza trovare nulla. «Quella lettera non è andata perduta!» esclamò. «Vi è stata rubata!» «Rubata? E da chi?» «Dal gentiluomo di ieri, è sceso in cucina dove c'era il vostro giustacuore ed è rimasto là solo. Allora il mio ladro è lui», ribatté D'Artagnan. «Farò le mie rimostranze a Monsieur de Treville, che a sua volta le farà al re». Quindi trasse maestosamente 2 scudi di tasca, li diede all'oste che, col cappello in mano, lo accompagnò fino alla porta. Risalì sul suo cavallo giallo, il quale, senza altri incidenti, lo condusse fino a Port Saint-Antoine a Parigi, dove il suo proprietario lo vendette per 3 scudi, il che significava strapagarlo dal momento che durante l'ultima tappa D'Artagnan l'aveva assai strapazzato. D'Artagnan entrò pertanto a Parigi a piedi con il fagottino sotto il braccio e gironzolò finché ebbe trovato da affittare una camera che convenisse ai suoi scarsi mezzi. Era una specie di mansarda situata in Rue des Fossoyeurs, nei pressi del Luxembourg. Paolo Bonacelli ha letto I 3 moschettieri di Alexandre Dumas, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it